Esperanza. Fra la borsa e la vita, 95 tesi sulla precarietà. 31 ottobre 1517. Martin Lutero affigge sulla porta della chiesa di Ogni Santi a Wittenberg, Germania, 95 tesi sulle indulgenze. 1 maggio 2010. A quasi 500 anni di distanza, San Precario affigge sulla porta della cattedrale di Ogni Soldi di Lugano, Svizzera, 95 tesi sulla precarietà. La precarietà uccide. La precarietà è esistenziale, oltre che lavorativa. La precarietà è strutturale. La precarietà è generalizzata. La precarietà è privazione di spazio, di tempo. Anche chi ha un contratto stabile è precario. La precarietà è di casa, quando si devono pagare affitti stellari. Ogni flessibilità, senza garanzie e reddito, si trasforma in precarietà. La precarietà è tutto intorno a te, ovunque. La precarietà è condizione intima alla metropoli. La precarietà è l'Europa del profitto. La precarietà è nella società dove c'è il dominio dell'essere umano sull'essere umano. La precarietà è nel corpo e spegne il cervello. La precarietà è donna. La precarietà è giovane, ma non solo. Combattere la precarietà significa conoscere le dinamiche del potere e come si riproduce ricchezza. Combattere la precarietà significa superare le paure individuali per costruire fiducia collettiva. La crisi finanziaria è alimentata dalla precarietà. Stolto è chi crede che siano i precari a causare la crisi finanziaria. La crisi finanziaria è madre e sorella delle crisi ambientali. Dove ci sono soldi per salvare le banche, ci saranno anche per dare un'esistenza degna ai precari. I precari amano, soffrono, creano, vivono. Le banche speculano, i broker non fanno i babysitter negli asili nido, anche i broker piangono, ciò non ci intenerisce. Gli ammortizzatori sociali non devono servire ad ammortizzare le perdite degli speculatori. La crisi finanziaria ve la pagate voi. Fra la borsa e la vita scegliamo la vita. La precarietà è potenzialmente sovversiva. La precarietà è nelle nostre vite. La precarietà è una brutta vita. La precarietà è il sentimento di impotenza. La precarietà si alimenta con il consenso ed il ricatto. La lotta contro la precarietà è gioia. Se la precarietà è penitenza, la cospirazione fra precari è riscatto. Cospirare è respirare insieme. Il lavoro è migrante, è transnazionale. Nella condizione migrante vi è l'apoteosi della precarietà. I permessi L, B, G, N, F precarizzano e ricattano i lavoratori e le lavoratrici migranti. Se i migranti sono ricattabili, tutto il lavoro si precarizza. La nuova legge sugli stranieri, LSTR, e la revisione della legge sull'asilo sono leggi sul lavoro e producono precarietà. La revisione della legge sull'asilo produce clandestinità. Anche se non tutti possiamo essere espulsi, se perdiamo il lavoro siamo tutti clandestini. Nessuna persona nasce clandestina. Il razzismo non è solo cultura, ma una scelta politica voluta. In Svizzera e in Europa, ovunque il razzismo c'è. Lo praticano governi e istituzioni. Il razzismo istituzionale rende possibile lo sfruttamento del lavoro migrante. La coscienza della precarietà distrugge il consenso. La garanzia di reddito intacca il ricatto. I soldi pubblici devono creare servizi per la collettività. La precarietà si ribalta in libertà, solo se c'è garanzia di reddito, casa, sapere, movimento, salute, socialità, amore. Il reddito non è consumo. Reddito significa scelta. Poter scegliere equivale a poter rifiutare. Vogliamo poter rifiutare un brutto lavoro. Vogliamo rifiutare un brutto ambiente di lavoro. Vogliamo poter rifiutare sfavorevoli condizioni di lavoro. Vogliamo rifiutare il lavoro perché è brutto in sé. Non vogliamo che nessuno lavori al nostro posto. Non vogliamo che qualcun altro viva sfruttando il nostro lavoro. Lavoriamo per vivere, non viviamo per lavorare. Poter rifiutare significa poter pretendere. Pretendere è rivendicare. Rivendicare vuol dire migliorare. Migliorare significa vivere meglio. Una vita migliore è una vita più degna. una sovvenzione pubblica per pagare un salario da fame in cambio del lavoro di cura di una donna migrante non è welfare. I diritti sono per tutte, tutti, nel lavoro, oltre il lavoro. I salari devono garantire una vita vera e non di sacrifici. I contratti devono essere pochi e chiari. Il profitto delle imprese è precarietà. Diminuire il profitto delle aziende è diminuire la precarietà. La rendita è precarietà. Precarietà è schiavitù ai brand. San Precario è il santo laico dei precari. San Precario è un bene comune. San Precario è un'istituzione dell'immaginario collettivo. La proprietà dei saperi è precarietà. La condivisione dei saperi è libertà. Il peer-to-peer è liberazione. Open non è free. La condivisione dei pensieri e saperi è potenza. La condivisione è ricchezza. La scuola è il laboratorio della condivisione. La scuola è un bene comune. La scuola pubblica è un baluardo contro le barbarie. La scuola è contaminazione di culture, mescolanza di esperienza. La scuola è la profezia del futuro. Se sfregi la scuola, ti giochi il domani. Armos non fa rima con scuola. Precarietà non fa rima con sicurezza. Esercito non fa rima con sicurezza. I centri di detenzione per migranti sono dei lager. L'Euro May Day è conforme alle 95 tesi e si batte per esse. Ogni apparente contraddizione è a carico della precarietà.